Friuli nel mondo, 252esima trasmissione dedicata agli emigrati. Reminiscenze. Il presentarvi oggi, cari emigrati, una fiorita di canti che non appartengono proprio alla nostra terra, anzi è il patrimonio di tutte le regioni italiane, vorrei dire, e scaturita da una richiesta, vorrei dire, di alcuni di voi durante un mio recente viaggio in Argentina. Mi dissero infatti: «Parceno Podino, sentì ogni tanto anche qualche chiantade di che i nono se li snoni se chiantavin, che sromangis, che venivin fur, dal cur, in che maniere?» E allora perciò ho pensato bene di ricorrere questa volta al duo Castellazzo Gallizio, che di questi canti ne ha fatta una raccolta, una trascrizione tutta sua. Una trascrizione che io penso, attraverso la trasmissione che ho data, sarà di vostro gradimento. Si capisce, sono sempre quei canti che riescono particolarmente graditi agli anziani, che attraverso tali melodie hanno anche la possibilità di rivivere momenti dei loro anni migliori. Ma anche, penso, gradite ai giovani, che accostandosi alla semplicità, all'ingenuità di creazioni musicali appartenenti ad un tempo più o meno lontano, se ne impossessano dei facili motivi e li inseriscono poi nel repertorio delle loro improvvisate esecuzioni corali, come è capitato a me proprio di ascoltare taluni di questi canti che oggi vi vengono presentati. Ecco, allora che cominciamo subito con Scendendo giù dai monti, nella trascrizione, come i tre canti che seguiranno, degli stessi Gallizio e Castellazzo. Ci sarà anche l'accompagnamento d'orchestra. Scendendo giù dai monti, contra una paesana. Scendendo giù dai monti, contra una paesana. Era graziosa e bella, la mi voleva bene. Era graziosa e bella, la mi voleva bene. La mi voleva bene, la mi portava a spasso. La mi voleva bene, la mi portava a spasso. La mi portava a spasso in fondo al suo giardino. La mi portava a spasso in fondo al suo giardino. In mezzo al suo giardino ci sta una fontanella. In mezzo al suo giardino ci sta una fontanella. C'è l'acqua fresca e bella per rinfrescare i fiori. C'è l'acqua fresca e bella per rinfrescare i fiori. Per rinfrescare i fiori, per rinfrescare le rose. Per rinfrescare i fiori, per rinfrescar le rose. Per rinfrescar le rose i gelsomini. Per rinfrescar le rose i gelsomini. Le rose i gelsomini. Le rose i gelsomini. Mentre l'acqua fresca e bella continua a rinfrescare i fiori, le rose e i gelsomini, preoccupiamoci un po' della terribile sofferenza di questa ragazza che, pensando al suo amore, sente che il sangue le si ferma e non scorre più tra le vene. Ascoltate O mio carino. Carino, tu mi piaci tanto, sì come il mare piace alle sirene, per il tuo amore soffro tanto, tanto. Siamo contenti che O mio carino vi sia piaciuta. Ed ora basta mettersi d'accordo per affermare che fumar la pipa non è peccato. A 15 anni quando fumai la prima volta mi ubriacai, ora non soffro noie e dolore, io son fumatore, io son fumatore. Cimpa la la la cimpa, cimpa la la la cimpa, cimpa cimpa cimpa cimpa, cimpa cimpa cimpa cimpa, cimpa la la la cimpa, cimpa la la la cimpa, cimpa cimpa cimpa cimpa, cimpa cimpa cimpa pa. Fumar la pipa non è peccato, l'ha detto il parroco, che me l'ha insegnato. Fatemi largo, fatemi onore, io son fumatore, io son fumator. Cimpa la la la cimpa, cimpa la la la cimpa, cimpa cimpa cimpa cimpa, cimpa cimpa cimpa cimpa, cimpa la la la cimpa, cimpa la la la cimpa, cimpa cimpa cimpa cimpa, cimpa cimpa cimpa pa. Fumano i ricchi e gli operai, soltanto il medico non fuma mai. No, non mi associo a tal dottore, io son fumatore, io son fumator. Cimpa la la la cimpa, cimpa la la la cimpa, cimpa cimpa cimpa cimpa, cimpa cimpa cimpa cimpa, cimpa la la la cimpa, cimpa la la la cimpa, cimpa cimpa cimpa cimpa, cimpa cimpa cimpa pa, cimpa cimpa cimpa cimpa, cimpa cimpa cimpa pa, cimpa cimpa cimpa cimpa, cimpa cimpa cimpa pa. Anche nei rapporti sentimentali la moda ha le sue esigenze e vuole avere la sua parte. Udite infatti, vieni stasera. Vieni alle una, alle due, alle tre, vieni stasera. Stasera la mamma non c'è. Mamma non c'è e il papà è al lavoro. Vieni stasera, vieni stasera. Mamma non c'è e il papà è al lavoro. Vieni stasera, faremo l'amore. Vuoi fare l'amore con me? Porta i capelli, porta i capelli. Ma se vuoi fare l'amore con me, porta i capelli alla bebè. Alla bebè non li voglio tagliare, perché la moda, perché la moda. Alla bebè la prossima volta, cari emigrati, ci incontreremo di nuovo con le nostre villotte e sarà forse occasione buona per fare una specie di parallelo tra questi canti di un tempo e le villotte che conservano, anche se nuove, sempre un richiamo al tempo passato. Difatti, chiudiamo questa trasmissione con un canto pieno di nostalgia e di rimpianto per l'infanzia ormai lontana. È stato trascritto da Pinchi, Gallizio e Fenicio. Una ragazzina. Mi ricordo quando eri ragazzina, ti incontravo davanti a casa mia. Ogni giorno all'uscita dalla scuola cercavi me, cercavi me. Eri bionda col grembio vino nero, ma quel tempo ormai è già passato. Mi cercavi, ma adesso sono io che cerco. con gli amici tuoi, mentre io ci soffro e non ti accorgi mai. Con gli occhi vorrei dirti fermati, ma questo non lo sai e te ne vai, e te ne vai. Mi ricordo quando eri ragazzina, ti incontravo davanti a casa mia. Io ti prego di non cambiare strada, credi a me che aspetto te perché ti amo, perché ti amo. Mi cercavi, ma adesso sono io che cerco te. Adesso non sei più come tante volte, con me non giochi tu. Tu sorridi e scherzi con gli amici tuoi, mentre io ci soffro e non ti accorgi mai. Con gli occhi vorrei dirti fermati, ma questo non lo sai e te ne vai, e te ne vai. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ottavio Valerio.